distanza di un anno dal nostro precedente rapporto in realtà non è cambiato moltissimo, e nonostante ci sia anche un anno di emergenza sanitaria che abbiamo vissuto. Quindi il sistema attivo italiano sostanzialmente risulta continuare ad essere caratterizzato da una frammentarietà programmatica, da finanziamenti esigui e discontinui, da disparità regionali e poi anche da una governance debole e poco trasparente. E per di più ciò che è emerso un po' anche nel titolo che abbiamo voluto dare quest'anno al rapporto, che è stata un'occasione mancata, nel senso che in un periodo di ripresa economica in seguito alla pandemia, in cui ci sono miliardi di euro destinati proprio a riforme e a far ripartire il paese, pensiamo ai quasi 200 miliardi del PNRR, nessun euro di questa strategia è stato destinato alla prevenzione, al contrasto della violenza o alla protezione delle donne che tale violenza la subiscono. Anche in questo senso credo che una delle cose più gravi che emerge dal rapporto è il fatto che quelle poche azioni che si fanno verso la violenza di genere riguardano azioni di carattere protettivo e non preventivo. La politica perché tende a preferire le prime alle seconde? Beh, tende a preferire perché probabilmente non vi è questa radicata consapevolezza della necessità di lavorare proprio sul tema della prevenzione. Forse anche perché le stesse, perché ricordiamo, come diceva lei, solo il 14% delle attività sono state proprio realizzate per prevenire la violenza, e ben il 75% invece per l'attività di protezione. Quindi non stiamo dicendo di investire assolutamente meno in questa, ma di investire molto di più nella prevenzione. Forse anche perché un po' tutte le organizzazioni sociali, culturali e anche le istituzioni stesse sono permeate da un certo tipo di cultura, anche patriarcale millenaria, si potrebbe dire. E quindi anche a volte inconsapevolmente prendono delle decisioni fondamentali o non prendono delle decisioni fondamentali che potrebbero in effetti prevenire la violenza maschile contro le donne. L'esempio che facevo prima è lampante: PNRR, nessun euro investito proprio sulla prevenzione o più in generale sulle politiche antiviolenza. Invece, in riferimento alla frammentarietà, c'è un qualche tipo di riflessione dal punto di vista istituzionale sulla questione meridionale, sulle disparità sociali ed economiche, e come può essere superata la frammentazione istituzionale del sistema antiviolenza italiano? Ma con un maggiore coordinamento, innanzitutto proprio alla programmazione degli interventi, perché allo stato attuale noi abbiamo un piano nazionale antiviolenza che, ricordiamoci, è stato presentato ieri 22 novembre, stiamo parlando del piano 2021-2023, quindi con un gravissimo ritardo di quasi un anno, e poi abbiamo molti piani regionali, non tutte le regioni ma quasi tutte presentano un piano regionale, e quindi bisognerebbe fare in modo che questi livelli si parlassero molto di più. Ci sono degli spazi previsti in cui ci sono degli scambi, ma evidentemente non sono sufficienti, non sono adeguati e soprattutto non sono regolari. Quindi stiamo parlando anche di una governance di un sistema che dovrebbe essere migliorata. Probabilmente le riunioni al momento previste sono troppo poche, vedersi ogni 6 mesi probabilmente non è molto utile proprio per intervenire in maniera regolare e a volte anche necessariamente tempestiva rispetto agli interventi da mettere in atto. E quindi insomma bisognerebbe attivare un confronto che faccia proprio anche raccogliere quali sono i bisogni specifici dei singoli territori. Questa è una delle nostre raccomandazioni che oramai da anni avanziamo, ovvero la necessità di partire da un'analisi dei bisogni territoriali rispetto ai centri antiviolenza, alle case di rifugio, alle donne che vi vengono ospitate, ma anche ai vari attori che a vario titolo fanno parte di quelle reti che prevengono, anzi piuttosto forniscono azioni di protezione rispetto alla violenza. E infatti questa nostra raccomandazione abbiamo anche cercato di avanzarla in sede parlamentare per proporre delle modifiche alla legge su cui poggia l'intero sistema nazionale, perché anche i fondi antiviolenza di cui noi monitoriamo l'andamento ogni anno ci dimostrano da un lato che sono effettivamente esigui, che arrivano con grave ritardo, dall'altro però ci pongono sempre anche un'altra domanda: sono fondi necessari o meglio ancora quanti fondi sarebbero necessari per poter efficacemente gestire un sistema nazionale, regionale, locale antiviolenza? Ebbene, non c'è una risposta precisa a questa domanda, perché non c'è uno strumento che ci permetta di rispondere a questa domanda, e sarebbe necessario, perché avendo una risposta di questo genere poi si saprebbe anche quante risorse dovrebbero essere messe a bilancio.